il mille non più mille, la paura di morire, ci sono troppe cose che ti devo ancora dire, e crollano le torri e crollo pure io, e più mi guardo intorno più mi trovo senza un dio. Ricordo un uomo, la gente lo ascoltava, in bianco sul vestito di pace ne parlava, invece cadono i regimi sotto i colpi dei cannoni, adesso siamo in guerra per colpa dei padroni. Non siamo soli, non siamo soli. Versati da bere l'ultimo bicchiere che beviamo insieme. Sono le preghiere fino in fondo al mare. Non a bordo le speranze sui volti dei bambini, intanto che lottiamo per ideali vani, il clima sta cambiando senza metterci le mani, e dentro gli ospedali, in mezzo alle corsie, le teste sono alzate per le chemioterapie, e mentre festeggiamo l'Italia in vetta al mondo, la Croce Rossa parte quasi all'ordine del giorno. Non siamo soli, non siamo soli, versati da versati da bere l'ultimo bicchiere che beviamo insieme. Sono le preghiere fino in fondo al mare. Non dimenticare, non si può tornare su. Il mare che avanza, che ti trascina via, è un'esplosione atomica, il tempo si è esaurito, decollano gli aerei e abbattono il nemico, sono poche le cose che mi restano da dire, le spargo come ceneri, adesso sono mie, le spargo come ceneri. La terra che trema, la testa che gira, il mare che avanza, che ti trascina via, è un'esplosione atomica, il tempo si è esaurito, decollano gli aerei e abbattono il nemico, sono poche le cose che mi restano da dire, le spargo come ceneri, adesso sono mie, le spargo come ceneri, adesso sono mie, mie, mie. Non siamo soli, non siamo soli. Non siamo soli, non siamo soli. Non siamo soli, non siamo soli, non siamo soli.